lasciati andare. Se per te la, per te la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Capito come? Signore e signori, in console c'è Gigi D'Agostino. La distanza mi ha fatto capire che tengo troppo ad una persona, perché ogni giorno che passa mi manca sempre di più, ma non ho il coraggio di dirglielo. Ci sto male. Ed è solo grazie a te se continuo a volare. Lo so che c'è bisogno di firma e destinatario, ma per questa volta fai un'eccezione. Sono Gianmarco, vorrei dedicare Infini di noi ad un grande uomo. Ciao, papà. Ciao Gigi, volevo dedicare un giorno credi a quel tamarro di Daniele e fargli gli auguri di buon compleanno. Gabriele da Cantù. Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e cominciare da zero. Il cammino di Gigi D'Agostino. una grande famiglia danzante. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Questa era la campanella e oggi è una bella giornatella. L'amore non guarda con gli occhi, ma con l'anima. Andrea da Castellammonte. Gigi D'Agostino, una musica infinita che racconta la vita.

ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. Gigi D'Agostino, reparto pelle d'oca. Right.

Ci sentiamo domani, grazie a tutti.